perché il business model di Facebook sia basato sulla monetizzazione del discorso d'odio, sulla trasformazione del conflitto in attenzione pubblicitaria, è un fatto già risaputo. Quello che è nuovo rispetto alla testimonianza di Hogan è la presenza di documenti interni all'azienda che danno un'ulteriore conferma, una prova che questa volta non è radicata solamente nei leaks, nelle rivelazioni di ex dipendenti sui quali si può sospettare rancore nei confronti dell'azienda o chissà quale secondo fine, ma questa volta si tratta di una testimonianza radicata in documenti interni, in memo interni dell'azienda, che però conferma quello che finora si era già sufficientemente acclarato, e cioè che il motore economico, il business model dell'azienda chiamata Facebook, non è basato sulla mutua comprensione, sull'incontro tra liberi utenti della rete, ma sull'utilizzo di un discorso d'odio che monetizza i bisticci. Su Facebook i bisticci fanno profitti, la comunicazione è sana, non è funzionale agli interessi dell'azienda. Il meccanismo è quello dell'engagement, cioè i bisticci fanno aumentare poi anche le condivisioni e quindi anche la tensione per poi avere più pubblicità. Ecco, immaginatela come una cena di Natale dove ci sono tutti i parenti e in un ambiente sano, in una famiglia sana, se c'è il nonno fascista che le spara grosse quando beve un bicchiere di vino in più, non lo si mette al centro del discorso dell'attenzione, lo si fa parlare facendosi entrare da un orecchio e uscire dall'altro quello che esce, e poi per il resto ci si concentra su messaggi più sani, su relazioni più costruttive. Su Facebook avviene l'esatto contrario. Se Facebook sa che tra i miei amici, perché può capitare, c'è uno che fa la pratica venatoria, o c'è un militare, o c'è una persona con la quale ho possibilità di entrare in polemica, i suoi contenuti verranno messi in evidenza e filtrati rispetto ad altri, in maniera che dal bisticcio tra me e lo zio che ha bevuto un bicchiere di troppo ne scatti un'esplosione di conflitto che rovina la cena di Natale in famiglia, ma sui social network crea interazioni, polemiche, commenti, repliche, sdegno, perché su Facebook non è il messaggio sano, la comunicazione sana che fa gli interessi dell'azienda, ma è tutto quello che fa montare la panna di un dibattito e può essere utilizzato anche con fini manipolatori, come dimostrano il caso del Brexit e dell'ascesa del suprematismo bianco negli Stati Uniti. Quindi insomma però è un falso confronto in realtà, perché poi lo strumento non consente poi di andare in profondità e magari confrontarsi anche con punti di vista diversi. È un confronto falsissimo, come lo è del resto anche il confronto dei talk show, tutti i confronti che vengono inseriti in un format mediatico che in realtà è funzionale a seconda di fini, a interessi terzi. Se nella televisione pubblica e privata il contenitore, il format, a prescindere dal contenuto, è funzionale agli interessi di governo per la televisione pubblica o agli interessi di un'azienda per la televisione privata, sui social network l'interesse dominante è quello dell'inserzionista, del cliente pagante, di Cambridge Analytica che compra profilazioni di cittadini britannici per poter vincere un referendum nazionalista con l'1,9% di scarto. È funzionale all'interesse di chiunque voglia assoldare l'azienda chiamata Facebook per le proprie finalità di propaganda politica, di marketing, di marketing sociale e di lobbying a vario titolo. Un'ultima domanda riguarda la politica, le istituzioni che negli ultimi tempi fanno anche leggi contro il discorso d'odio, però sembrano non incidere su Facebook. Ma perché c'è da parte anche e soprattutto della sinistra una debole cultura della rete, per cui ci sono reazioni scomposte come le richieste di identificazione e schedatura degli utenti dei social, che sono contrarie al diritto umano all'anonimato. Il diritto all'anonimato è un presupposto per esercitare diritti umani fondamentali, come il diritto a non essere perseguitati per le proprie opinioni politiche, il diritto alla libera espressione, il diritto di non entrare nel mirino dei regimi oppressivi e autoritari. Quindi ci sono queste reazioni scomposte che da una parte pretendono di normare l'attività di un'azienda che ha sede legale fuori dal territorio nazionale, dall'altra chiudono gli occhi di fronte alle alternative, per cui uno Stato a tutela dei propri cittadini dovrebbe e potrebbe creare spazi di comunicazione non funzionali al profitto, ma funzionali all'interesse pubblico. pubblico. Questo ruolo non è ricoperto da un dibattito culturale a sinistra, non è coperto da un'attività governativa, è coperto come al solito dagli hacker, dal software libero, da chi sviluppa programmi come Mastodon che noi usiamo sulla piattaforma sociale.network per creare un ambiente libero da tutti quei vincoli aziendali, commerciali, da tutti quei filtri, da tutte quelle schedature che colpiscono gli utenti, in particolare i più deboli, i più giovani, i meno esperti all'uso di questi strumenti, mentre invece nel cosiddetto fediverso delle piattaforme federate e decentralizzate c'è una maggiore tutela degli utenti finalizzata alla comunicazione e non a un business plan aziendale.